pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Y yo hoy estoy aquí imaginando. Sexy baila y me deja con las ganas. Y yo hoy estoy aquí imaginándolo. Sexy baila y me deja con las ganas. Qué bien te queda a ti esa palita. Ella señora, no es señorita. Sexy baila y me deja con las ganas. Cómo te luces cuando lo meneas. Cuánto quisiera hacerte el amor. Enséñame lo que sabes. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Vamos a pegarnos como animales. Si necesitas reggaetón, dale. Sigue bailando, mami, no pare. RadioArchimede.it. Sono solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio, Fulvio Gatti. I fumetti sono belli, sono di carta, possono anche non essere di carta, però quando sono di carta interviene una figura professionale ben precisa, una serie di macchine e di attività che approfondiremo come essere artigianali, una forma ben precisa di artigianato, che è la tipografia. E con questa mia idea di spaziare un po' in tutto il mondo l'ambito professionale intorno a fumetto e cultura pop, era già spuntata questa idea di dire: ma non ho ancora avuto qualcuno che si occupa di tipografia. Chiacchierando su Facebook, ci eravamo già incontrati in precedente occasione, eravamo rimasti dell'idea con Francesco Bosco, l'ospite di oggi di A4 Servizi Grafici. Buongiorno. Eravamo rimasti dell'idea di comunque di averlo in trasmissione. Poi il timore era un po' di andare troppo sul tecnico con le questioni di stampa, eccetera. Sì, il timore era questo, ma mi hai convinto alla fine. Esatto. Alla fine in realtà non siamo stati, ci ha convinto una coincidenza astrale, che è stato 3 settimane fa Andrea Musso, esatto. Che mi ha portato la copia di Gatto Killer, guardo A4 Servizi Grafici. Ok, e allora qui è come... E da lì nasce. Esatto, a volte certe cose diventano inevitabili, come pare che a un concerto, a me l'aveva raccontato Gianluca Morozzi questo, che a un concerto di Springsteen, per fargli fare Drive All Night da The River, gli avessero barattato un gruppo di fan nel pit, avessero barattato il loro posto con una bambina, le avevano dato tre buste enormi, e il boss apre una, apre l'altra, la terza l'ha fregata, ha dovuto farla. E quindi a volte succedono queste cose, che infatti, quella era più pilotata. L'amico comune in questo caso è stato il catalizzatore. Esatto, esatto. Poi in realtà ci sono altre conoscenze in comune che abbiamo già avuto come ospiti. E la cosa che a me fa molto piacere, che praticamente sei anche il primo ospite che anche conosce un po' la trasmissione. Sì, perché effettivamente sono un ascoltatore, questa è una cosa. Questo mi lusinga molto. Potrebbe aiutare. Poi chi ci guarda in webcam vede che c'è anche un ospite a sorpresa, che è Davide Tarò, che si nasconde, scrittore esperto di anime, è possibile? Giusto? Ok. Lontanissimo dal microfono perché è timido. È possibile, non essere sì, timido. Sì, ok. Vabbè, ok, poi al massimo gli facciamo poi le domande a sorpresa, quelle più rame. Solo così, tanto lui è lontano dal microfono, non giro, si sente, certo. Quindi sarà totalmente inutile. Una dialettica invidiabile. Ok, no, beh, capisco, grazie Davide comunque per il fatto che noi cerchiamo di incentrare la puntata sul discorso tipografico, perché c'è tantissimo da dire. E come sempre una puntata sola non ci basterà, la puntata di un'ora è lunga, ma quasi sempre non è abbastanza. Per cominciare... qual è l'errore di interpretazione più grosso con cui hai a che fare quando qualcuno parla di tipografia? Cos'è che tutti pensano che sia fatto in una maniera, poi invece è tutt'altro? L'errore più grosso mi manda in bestia senza nulla togliere a nessuno quando mi dicono: ma tu in copisteria cosa fai? Ecco, questa è una cosa che non posso tollerare. No, è il... diciamo che c'è molto... non so neanche se chiamarla disinformazione, perché non è proprio il termine. No, vabbè, corretto. Scarsa chiarezza. Scarsa chiarezza, forse. Perché, del fatto essendo un ambito che specialistico, cosa, cosa si fa in una tipografia esattamente? Come può nascere il prodotto tipografico, qualsiasi esso sia, nello specifico un libro o un fumetto? È una lavorazione complessa, non è una lavorazione semplice, non è una cosa che si improvvisa. è frutto del lavoro, un libro è frutto del lavoro di varie persone, non c'è un tipografo come può essere nell'immaginario collettivo, quello di una volta con il camice nero e pieno di inchiostro, non è così, è un lavoro complesso, ci sono tante dinamiche da rispettare. Quindi tu non sei quello che fa i libri, io credo fossi quello che faceva i libri da solo, così, in camera tac, oscura. Camera oscura si facevano una volta le fotografie. Esatto. E si è passato anche da quello, adesso le tecniche sono diverse, ma la dinamica poi è sempre la stessa, quindi diciamo che questo lavoro adesso lo fa più l'editore. Il prodotto libro arriva in tipografia già impaginato, già messo a posto, tra virgolette, perché poi dobbiamo sempre metterci del nostro. Tarò lo sa molto bene. Sì, beh, ci sono tutte, però una parte di lavoro che viene fatto in una casa editrice, una parte di lavoro che viene fatto una parte in lavoro tipografia, che è la rifinitura e soprattutto la parte molto molto tecnica che riguarda poi il prodotto libro finito, cioè che cosa devi stampare in base a quello che devi stampare. Dovrei fare delle scelte. Sì, più che altro l'editore dovrà fare delle scelte in base ai consigli che gli saprà dare il tipografo. Okay. Se c'è una relazione costruttiva tra l'editore e il tipografo. Ecco, la relazione costruttiva tra editore e tipografo è forse il fondamento base per arrivare a un prodotto buono. Non dico ottimo, perché altrimenti, insomma, sì. Però perlomeno buono. Vabbè, meglio non lanciarsi i libri, quindi. Meglio non lanciarsi i libri, assolutamente. Perché magari poi, soprattutto se li lanci, probabilmente sono quelli non venuti bene. Chiaro, io adesso ho semplificato tutta la parte che sta prima della stampa vera e propria, certo, del libro. Poi la parte della stampa è poi quella che forse interessa di più, che è dove c'è l'inchiodo, dove ci si sporca. Ok. Ci si sporca le mani. Allora, abbiamo detto, comunque, così. C'è una serie di scelte a monte che fa l'editore insieme al referente della tipografia. Che dovrebbe fare l'editore, okay. Purtroppo non tutti lo fanno. Ok. Comunque, sì. Vabbè, in una situazione ideale. In un mondo giusto. Visto, cerchiamo di chiarire come sono le cose, poi non sempre sono tali per questione di costi, per questione di una serie di altri problemi, anche incompetenza del singolo personaggio, ma questo non stiamo parlando di questo, non ci interessa. A volte gli editori sono da educare, però. Mi fai venire molto in mente, c'è un sceneggiatore importante, Bonelli, essendo una cosa un po' cattiva, dico il peccato non il peccatore, che a volte dice dei disegnatori che sono proprio bestie, che devi trattarli il malissimo. Poveri disegnatori. Nel caso, sicuramente è importante il dialogo, sicuramente è importante capire entrambe le parti quale siano le scelte da fare per ottenere il miglior risultato possibile. Esatto, è proprio lì che interveniamo. Che interveniamo noi o che vorremmo intervenire. Purtroppo non sempre è possibile questa. No, ma siamo ottimisti, stiamo al caso migliore. Quindi, nel caso migliore l'editore ha un'idea. Okay. Ha un'idea che si spera, sempre nel caso migliore, sia di comune accordo con l'autore. Ok. Già, se c'è un conflitto a monte di cui rischiate, esatto, di essere vittime. Esatto. Se queste due cose funzionano, quindi se l'editore e l'autore hanno ben chiaro che cosa vogliono, il tipografo può valutare e può suggerire la soluzione migliore per esaltare al massimo il prodotto finito che, okay, si vuole avere. Quindi qua sta la difficoltà e qua sta anche la bravura da entrambe le parti a capire anche qual è il giusto rapporto, parliamo di supermercato, il giusto rapporto qualità-prezzo, certo, che si vuole avere, perché poi il libro alla fine lo devi vendere. E quindi fare le cose belle, bellissime, molto costose è abbastanza semplice. Fare le cose invece che abbiano un giusto prezzo, con una giusta qualità, è un po' più difficile, ma le soluzioni si trovano. Anche si perché vuole, quello che alla fine, ciò che l'utente finale vede in libreria, il lettore, è poi il libro con un prezzo. Ma quel prezzo è molto determinato da quanto costa il singolo volume a stampa. E questo bisognerebbe chiederlo più agli editori, sì, okay, no, sì, non sì, a sì, me. Sì. No, beh. Certo che la parte stampa influisce, sicuramente influisce, quindi il materiale che si usa, il tipo di carta che si usa, il tipo di confezione, i tempi di lavorazione, la qualità di stampa, che non è sempre uguale, purtroppo, dipende molto dai materiali, quindi... Esatto. Queste cose sono da bilanciare molto bene, sono da valutare molto bene, e sono difficili. L'esperienza fa, noi abbiamo un'esperienza, insomma, ormai ventennale da questo punto di vista, sembra che sia gli autori sia gli editori siano contenti, quindi no. Abbiamo cercato di strutturare anche la nostra azienda nella produzione di libri in modo da facilitare molto all'editore la scelta di tutte queste cose. Questo sarebbe, in teoria, questo non vale solo per noi, vale per tutte le tipografie artigiane, perché la tipografia industriale ha un processo un po' diverso. Le tipografie artigiane, diciamo che si possono permettere di stare un po' più dietro a queste problematiche, a trovare più soluzioni. E a un livello industriale è un pochettino più difficile questo tipo di percorso. Vabbè, in questo parallelismo probabilmente allora tra editore indipendente e grande gruppo editoriale, tipografia artigianale, tipografia industriale, potrebbe essere calzante pur con tutti i limiti. Sì, decisamente sì, perché la tipografia artigianale, come siamo noi, come sono altre, ha al suo interno dei personaggi che non sono proprio specifici. Non hanno proprio un mestiere specifico, diciamo così. Sì, c'è lo stampatore che sta sulla macchina, c'è chi magari si occupa più della parte economica, però le persone che lavorano all'interno di una tipografia medio-piccola si occupano un po' di tutte le cose, quindi parlano con il cliente, parlano col fornitore, scaricano il camion della carta, scelgono gli inchiostri. Quindi quando arriva un cliente, per un artigiano è un po' più nelle sue corde seguire, cercare di fare in modo che il cliente sia soddisfatto, quindi di capire che cosa vuole, entrare nella sua testa. È il bello dell'artigianato e anche il brutto dell'artigianato, perché il brutto tra virgolette, perché ti impegna molto mentalmente, ti impegna molto come tempo, ti fa perdere tempo che poi devi recuperare, perché comunque il lavoro lo devi consegnare, e quindi naturalmente come tutti i mestieri è un pro e un contro, ma nell'editoria nello specifico questo secondo me è un valore aggiunto per tutti quelli che seguono questa linea. Quindi immagino che sia diventato cruciale saper fare le domande giuste all'editore che ti porta al progetto. Esatto. Sì, questa è una cosa fondamentale. Quindi è quello che dicevo prima, per fare le domande giuste devi riuscire a intuire che cosa vuole lui. A volte devi anche fargli capire che magari deve ascoltare un po' di più il suo lato artistico e quindi l'autore, che sia un libro, che sia un fumetto, però seguire un po' di più quel che vuole l'autore, magari si trova una soluzione. Insomma, si cerca di. La tendenza è quella, no? Cercare di. Mi ripeto, però, cercare di accontentare, cercare di capire, è fondamentale. E lo so che è una cosa che può sembrare ripetitiva, ma è proprio fondamentale. Fondamentale. Vabbè. Vale in qualsiasi processo produttivo, creativo che coinvolge una serie di persone. Bisogna mediare. Sì, bisogna mediare, entrambe le parti devono essere consapevoli del fatto che bisogna mediare. Ok, fantastico, quindi abbiamo scoperto che c'è anche un po' di politica in senso di mediazione nel lavoro di chi si occupa di una tipografia. Certo. Mandiamo la prima canzone, siamo in stile hard rock oggi, Francesco avrebbe voluto ancora più hard, però... Vago in questi reami di tra hard rock, rock blues, che è un po' la mia cultura musicale. Spotify aiuta, e quindi grazie a Giovanni Regia che adesso lancia Panama dei Van Halen. Comes for blasting time down. Hot shoe. run a little bit hot tonight. I can barely see the road from the heat coming on. Reach down between my legs, ease the seat back. E torniamo in onda sulle note di Van Halen. Però Giovanni non mi ha messo la sigla. Io mi ricarico ogni volta dopo la sigletta buffa, l'orchestra di Mos Eisley. Lo so, ognuno si accontenta di poco. Io sono andato in tilt, in brodo di giuggiole, qualsiasi cosa fosse la prima volta che l'ho sentita, e da allora mi autocarico di nerdismo. E quindi, pur senza la sigletta, senza l'orchestra di Mos Eisley, torniamo in onda con Francesco Bosco. Parlavamo di tipografia e non volevamo andare troppo sul tecnico, però fuori onda è uscito un aneddoto interessante. Allora, il punto è: la difficoltà di questa puntata sarà su cui ci barcameneremo, sarà di non andare troppo sul tecnico. Vogliamo rendere comprensibile l'argomento. Però farò del mio meglio, prometto. Ok. Nel momento in cui io ti faccio la domanda più difficile di tutte, parliamo di inchiostri. Però tu mi puoi tirare in fuori un aneddoto che invece ci riconduce, sì, esattamente una cosa curiosa. Però devo fare una premessa. Okay. La stampa la difficoltà della stampa del fumetto in bianco e nero è data proprio dal bianco e nero. Ok. Quindi, che c'è nero e nero. Mm. Tempo fa, per risolvere il problema del troppo poco nero sulla carta, quindi del caricare troppo la carta d'inchiostro, e poi leggi il fumetto, si sporcano le dita, tutte queste cose qua, si sporcano i rulli, hanno tirato fuori, adesso non mi ricordo esattamente bene l'azienda, hanno tirato fuori un inchiostro che si chiama Nero Fumetto Tex, che è proprio quel Tex lì. Nel senso che è stato creato un inchiostro, che è stato creato da una casa che adesso non c'è più, è stata assorbita da un'altra, con un tantissimo pigmento nero, è stato prodotto apposta per Bonelli, per stampare i fumetti Bonelli. Noi l'abbiamo scoperto per caso, perché un nostro fornitore illuminato ci ha detto: ma voi fate i fumetti, ho l'inchiostro giusto per voi. Abbiamo provato questo inchiostro ed è fantastico per stampare i fumetti, aveva ragione. E da allora è stato il nostro marchio, non di fabbrica, perché la fabbrica non è nostra, però uno dei nostri marchi distintivi. Quindi uno strumento tecnico, squisitamente tecnico come l'inchiostro, esatto, ha influenzato il linguaggio del fumetto così come lo conosciamo. Il fumetto Bonelli con quei neri, quelle campiture. Esatto. Esatto. È stato possibile, lo conosciamo, anche grazie allo sviluppo questo tecnico. Oltretutto, adesso la tipografia lavora anche per Bonelli, quindi abbiamo chiuso il cerchio. Ok. E tra l'altro, però questo inchiostro ha influito molto sul nostro modo di lavorare, sul nostro modo di lavorare. Cioè, noi sappiamo che usando quell'inchiostro possiamo utilizzare un certo tipo di stampa, e quindi anche noi siamo stati influenzati da questa cosa. No, ma infatti l'essere influenzati dagli utilizzi degli strumenti penso che sia una delle componenti fondamentali dell'artigianato. Sì, sì, sì, in questo caso è al contrario, però, cioè no, come dici tu, non siamo noi che decidiamo come utilizzare una cosa, ma è quella cosa che ha detto a noi come essere utilizzata. Esatto, no, ma quasi sempre i paletti. Una cosa... Ma infatti non siamo così lontani, perché anche qui parliamo di... Ma non è sbagliato. È questione di creatività, esatto, anche nel trovare le soluzioni. Poi magari sì, può essere più nobile immaginare qualcuno che inventa un personaggio a fumetti piuttosto di qualcuno che inventa un inchiostro, ma di per sé il risultato è lo stesso. È lo stesso. Io penso, l'associazione mentale che mi hai dato è che dicono che i costumi dei supereroi DC prima e Marvel dopo sono così accesi perché c'era un discorso di campitura, di utilizzo dei colori in quel tipo di tipografie. E quindi questo è un... cioè, se noi abbiamo Superman vestito di rosso e di blu, è anche perché si poteva colorare solo in quelle maniere. Non so esattamente, non so nei termini esatti la storia come si è svolta. Vabbè, so alcune cose sono volte anche dalla leggenda, però... No, so però che al tempo si tendeva, negli anni 50, 60, mm-hmm, si tendeva a usare meno colori possibili. Mm-hmm. E quindi certi colori dei costumi dei supereroi sono dati dalla perfetta sovrapposizione di colori primari, quindi il rosso e il blu di Superman, perché così si risparmiava sui retini. Quindi una volta non si colorava computer o comunque con gli ecoli, con gli acquerelli, si colorava campiture piene o i retini venivano appiccicati, proprio non so se qualcuno conosce i retini Letraset, comunque venivano appiccicati, tagliati sui disegni, e era un lavoro. Il fatto di usare campiture piene, quindi meno inchiostro, meno tempo per tutto, faceva risparmiare soldi sostanzialmente agli editori. Assolutamente. E parlando comunque di un'industria che ha sempre lavorato sul basso costo. Esatto, infatti erano prodotti sostanzialmente a basso costo. Però a me colpisce molto questa cosa che se Superman è rosso e blu è anche per via sì, del tipo di prodotto su cui veniva stampato, su cui è nato. Quindi... Ripeto, non conosco i termini esatti, ma sì, penso proprio di sì. E sono poi cose anche a volte dalla leggenda, però è interessante, cioè stiamo parlando di icone, di qualcosa di internazionale eccetera, di imitato, di qualcosa che è nell'immaginario, che è dovuto anche, poi c'è comunque la creatività degli autori, però anche a un limite tecnico, quindi limiti tecnici un po' come i paletti, sì, la bravura dei coloristi era quella di utilizzare quei pochi mezzi per avere il massimo risultato, minimo sforzo, esatto, sì. Anche quando siamo lontani poi da certa narrazione, certi ottimi artigiani della narrazione che amano girare attorno dei paletti, è sempre più quasi più divertente girare attorno dei paletti, per esempio è una prova anche, è una prova. Una prova tecnica, esatto, il viaggio dell'eroe anche in quello, qui andiamo ancora più sul narratologico spinto, questo è pornografia nerd di altro tipo, quindi lasciamo stare e iniziamo ora, poi proseguiamo però dopo la canzone, diamo il primo flash, l'ho accennato nel post, comunque A4 servizi grafici stampa per Bao sì. Tutti i titoli, la maggior parte dei titoli? 70%, 75%. Okay. Sì. Precisissimo anche la cifra, fantastico. Dico 70-75 perché non so mai... Ok, va bene. Però il discorso interessante è che stampate, e adesso si può già annunciare, perché è stato annunciato, Zero Calcare, e il prossimo libro ad aprile, mi pare, sì. Kobane Calling, che è il suo diario in Siria. Sì, esatto, i suoi viaggi in Siria, sono più di uno. Sì, i suoi viaggi in Siria a fumetti. Quindi stiamo parlando comunque di uno degli autori di fumetti più in luce in questo momento, e dal primo volume con Bao... Voi vi occupate della stampa, o sbaglio? Dal primo volume, sì. Okay. Il primo volume che è stato, posso dirlo, è stato Chu, volume 1. Primo sì, abbiamo iniziato l'avventura con Bao e Bao ha iniziato l'avventura con noi, diciamo così. Non è la prima volta che succede che una casa editrice inizi la propria avventura con noi. Fino adesso abbiamo portato abbastanza fortuna, devo dire. Bene. Quindi... Bene. Possiamo anche poi dirlo, non è un segreto. Certo. Prima della canzone, dopo la canzone. No, continua, ti interrompo poi io. Ah, ok. Sì, parliamo un po' della storia, allora. Sì. Come mai la 4 stampa fumetti? Sei più diligente tu di me, mi davi già la pausa sì. Del... È nato tutto per caso, è vero, è nato per caso, come la maggior parte delle volte succede, un giorno del 99-2000, non mi ricordo, comunque prima di quella maledetta alluvione che ha portato via tutto, compresi noi, si sono presentati due personaggi in tipografia, un rappresentante di un cliente che già avevamo, che però non faceva fumetti, che voleva lanciare questa nuova linea di fumetti. Questi personaggi, secondo me, tu qualcuno lo conosci, perché erano un tale Manfredi Toraldo e Schiavone Marco, che sarebbero diventati rispettivamente uno sceneggiatore, insegnante, che è già stato qua. È già stato qua ospite, adesso una sua casa editrice è Manfont, e l'altro semplicemente il CEO di Edizioni VD, quindi voglio dire, di strada ne hanno fatta dopo che sono venuti da noi a stampare per la prima volta un fumetto che si chiamava Arcana Mater, che è il primo fumetto che la 4 ha stampato, okay. Che abbiamo recentemente ristampato con copertina inedita di Sara Pichelli, quindi siamo andati, che voglio dire, disegnatrice stiamo di... Stiamo parlando infatti di Spider-Man, quindi esatto. Voglio dire, anche lì ci... Devo dire, portiamo fortuna, gli altri portano fortuna a noi, sicuramente, la cosa reciproca. Comunque... Quello è stato il primo fumetto, da lì è iniziata la nostra avventura. Io naturalmente ero contentissimo perché lettore di fumetti appassionato, quindi quando mi hanno detto questa cosa, nostra piccola tipografia, sì sì, stampiamo un fumetto, che bello. Siamo partiti, siamo cresciuti insieme, abbiamo capito insieme cosa andava, cosa non andava, dove potevamo migliorare, quali erano i margini entro i quali economici, entro i quali dovevamo stare, i paletti tecnici che ci mettevamo, insomma tutte queste cose. E pian piano poi ognuno ha preso la propria strada, però siamo rimasti sempre in contatto, tant'è vero che Edizioni BD ha continuato a stampare con noi, con le sue varie etichette, quindi con J-Pop e i manga. Sui manga ho poi un aneddoto che magari racconto dopo, okay, su perché c'è un certo formato di manga in giro. E quindi questo ci è servito come esperienza, sia noi come tipografia, sia gli editori come editori, per sviluppare poi varie tecniche e vari processi da utilizzare per la creazione di un libro a fumetti. Quindi 99-2000 l'esperienza, la nostra esperienza è cominciata da lì. Devo dire che, se ho ancora tempo, prima della pausa, che una cosa interessante... Il counter negli occhi. mi guardino. Una cosa interessante sui manga... Io guardo malissimo a tutti sempre, questo lo so, sono torvo. Una cosa interessante sui manga. Quando ci hanno proposto di stampare, per la prima volta, questi stranissimi fumetti, allora, per noi, che si leggono al contrario... Vero, Tarò? abbiamo cercato, insieme a Schiavone appunto, di trovare un formato che fosse il più risparmioso possibile, okay, da presentare sul mercato per sfondare in qualche modo. E ci siamo messi lì e abbiamo ottimizzato un foglio di stampa. Cosa vuol dire? I fumetti non escono a pagine singole, i fumetti escono stampati in un foglio di stampa che poi viene tagliato, piegato, messo insieme, cucito in sequenza, quindi ha tutta una numerazione, una dinamica molto particolare. Certo. Come si divide questo foglio? Si divide in vari modi. Noi abbiamo trovato il modo di dividere il foglio in modo tale che abbiamo creato questo formato che più o meno già esisteva, ma gli abbiamo dato delle dimensioni precise di altezza e larghezza, ed è diventato un formato standard nel mondo dell'editoria manga in Italia. Avessimo messo un copyright su questa cosa, ma non si può, ho pensato, l'Apple mette il copyright sugli angoli dell'iPhone, noi non potevamo mettere il copyright sul formato del manga. Sì, no, ve lo sareste spesi in avvocati per mettere il copyright, quindi però, di per sé non sarebbe stato la cosa interessante appunto, e poi questa cosa è successa poi di nuovo con i formati più piccoli, si chiamano formati ottimizzati in gergo. Sì. Ed è interessante perché noi non sapevamo di avere inventato questa cosa, non l'abbiamo inventata noi, l'abbiamo inventata insieme all'editore, però questo è un esempio di interazione massima tra chi stampa, chi produce materialmente il libro e chi lo crea come autore, come editore. Questo è proprio l'esempio classico di interazione. Chiaro, non può sempre essere così, ma come dicevamo prima, in un mondo giusto, esatto, questa dovrebbe essere la regola. In un mondo perfetto sarebbe la regola. E in un mondo perfetto si sentirebbe più spesso Bon Jovi alla radio, soprattutto quello di qualche anno fa. E lo facciamo non potendo, lo facciamo sentire noi, e quindi anche qui è come dire che la forza sia con noi, keep the faith. Keep the faith. Sapevo che saremmo andati a parlare in guerre stellari in qualche maniera. Keep the faith e Bon Jovi. Father, Father, Radioarchimede.it. Sono solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio Fulvio Gatti. E grazie Giovanni che ha mandato la sigla. Tra nerd e abitudinario la distanza è poco, anzi probabilmente ogni nerd è abitudinario. Io sono abitudinario, sono nerd, quindi a questo punto è un piacere avere qua Francesco Bosco di A4 servizi grafici. Stavo dicendo a 3, ti stavo togliendo un numero. Ma aumentavi il formato. Aumentavo il formato. Parlando di formati, quello che molti non possono sapere è che ci sono libri che è molto più difficile stampare rispetto ad altri. Oh sì, sì sì. La difficoltà è tecnica, nel senso, probabilmente la difficoltà sta nel rendere esattamente quello che vogliamo, dare al prodotto definitivo la resa migliore possibile rispetto agli originali. Sì, sì, si ricollega a quello che ho detto prima. Ogni autore ha un proprio stile. Può essere più pittorico, può essere più classico, può essere più bonelliano, quindi bianchi neri. Okay. Può essere colorato in un certo modo, può avere delle campiture più o meno accentuate. Quindi se tu riesci a capire cosa vuole trasmettere l'autore, riesci anche a capire in che modo devi stamparlo. Mm-hmm. E soprattutto riesci a consigliare l'autore, quando hai la possibilità di parlare con lui o l'editore, riesce a consigliare il tipo di supporto ideale. Quindi se hai un fumetto che ha tantissime tonalità di grigio e che quindi devono vedersi, non devono sciogliersi dentro il foglio, dovrai usare una carta che ti permette di stampare in maniera fluida. Non dovrai usare una carta porosissima, perché sennò va l'effetto carta assorbente, si macchia tutto. Quindi, però magari l'autore non vuole la carta patinata perché non gli piace, allora dovrai usare una carta non patinata ma che tenga l'inchiostro. Insomma, ci sono tutta una serie di cose da tenere presenti. L'esperienza conta molto in questo caso, e devo dire che noi siamo riusciti fino adesso a accontentare più persone, anche scoprendo delle cose che non sapevamo neanche noi, scoprendo delle tecniche che non conoscevamo neanche noi per stampare. Mi ricordo la prima volta che abbiamo stampato un fumetto a colori su carta, si chiama carta uso mano, che è la carta classica dei libri di testo, è la carta sulla quale abbiamo stampato per esempio Emina, Orfani, Robot di Davide Tarò, no? Viene in mente una cosa a caso di cui lui ci parlerà. Una persona qualunque che sta ben lontana dal microfono. Esatto, proprio sta ben lontana. Emina, Orfani, Robot, mi dice qualcosa, sì. La prima volta che abbiamo stampato un fumetto a colori su carta uso mano, l'editore non ci voleva credere. Noi abbiamo insistito dicendo: no, ma guarda che rende benissimo, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Abbiamo fatto delle prove. Il fumetto in questione era Hector Umbra di Edizioni VD. Mm-hmm. È un fumetto di un autore tedesco che consiglio di andarsi a riprendere, perché oltretutto è bellissimo, formato grande. Allora si potevano stampare i fumetti su formato grande a colori. Adesso non più, perché costano troppo, okay. Non lo fanno più. Allora si poteva. Okay. E il risultato è stato bellissimo, ed è stato bellissimo perché abbiamo sbagliato. Abbiamo sbagliato a calcolare la densità del retino. Che roba, che cos'è la densità del retino? La densità del retino è la grandezza del puntino che viene impresso sulla carta. Se voi prendete un qualsiasi fumetto, soprattutto colori, si vede, notate che nei colori ci sono delle sfumature, ci sono delle parti più scure e delle parti più chiare. Questo effetto viene dato dai puntini. Più i puntini di retino sono distanti tra di loro, più il colore è chiaro, più i puntini sono vicini, o addirittura non ci sono, più il colore è scuro. Ma questo puntino si vede. Cosa si fa per non farlo vedere? Si fa molto sottile. Si fa molto piccolo. Più piccolo, ok. Ma farlo molto piccolo significa che su una carta uso mano, appunto, si rischia di pastrocchiare tutto. E a meno che non si usi un sistema che mi riservo di non dire, perché è una cosa un po' privata della 4, è un sistema per il quale invece questa cosa non succede. Uh-huh. Tutti i toni sono fluidi, tutto viene molto bene anche su quel tipo di carta. Non dovevamo fare così, perché questa è una tecnica che si usa con la carta patinata, l'abbiamo fatta, è venuta bene, abbiamo scoperto di poterlo fare, vittoria. Abbiamo scoperto una cosa che ci ha dato ha dato modo a noi di poter proseguire sulla massima qualità su qualsiasi tipo di carta. Questa è una cosa che ha fatto andare a torizzare le antenne un po' di editori e devo dire che ha un termine scientifico o parascientifico, serendipità, trovare qualcosa cercando qualcos'altro. Esatto. Dai tempi in cui Cristoforo Colombo partì cercando un posto e invece trovò un altro. Però in questo caso non è stata voluta. Anche qua è stato, ammettiamolo, è stato anche un po' di fortuna. Nell'errore... L'errore che permette una scoperta, no? Sì, è sempre così. Giusto, l'errore no, che no, è la definizione corretta, non sminuirti, è una scoperta che avete fatto, è una cosa utile l'abbiamo portata avanti questa cosa, mischiando questa esperienza con altre questioni tecniche, tipo per esempio il nero che abbiamo detto prima, il fumetto nero creato per Tex, capendo fin dove ci potevamo spingere, siamo arrivati a definire degli standard qualitativi molto alti per quasi ogni tipo di fumetto, e quindi avere la soluzione giusta per ottimizzare il risultato. Certo. Un volume particolarmente complesso è stata l'edizione dell'Eternauta per 001 edizioni, sì, qui di Torino. Sì, però questo è motivo d'orgoglio, anche questo. L'Eternauta è stato veramente un gran prodotto. Anche qua c'è stata una forte interazione con l'editore, c'è stato più di un anno e mezzo, quasi due anni di preparazione per far uscire questo volume, per capire il formato giusto, per capire come si dovevano mettere giù le tavole, che tipo di risoluzione usare. È stato un lavoro molto complesso, l'editore ha lavorato bene, noi abbiamo lavorato bene, è venuto fuori un gran bel libro, devo dire, gran bel libro. Beh, credo tra l'altro che una delle cose che si dice, l'Eternauta è di quei fumetti talmente importanti di cui o lo conosci bene, l'hai letto, oppure ne hai timore reverenziale, forse non ti ci sei approcciato, è un po' il rischio di tanti classici. Infatti io avevo molta paura. Ma paura forse esagerata, però il timore reverenziale ce l'avevo, esatto. Perché personalmente per me era molto importante quel volume, ce ne sono stati altri così. La prima volta che abbiamo stampato un libro di Moebius. A livello molto personale, quando abbiamo stampato Spraylitz, perché ok, di Luca Enoch, certo. Sì, perché è una serie che leggevo da molto più giovane, insomma, mi ha fatto un certo effetto rivederla lì. E anche lì Luca Enoch è stato molto simpatico, perché in un volume, sempre sbagliando, abbiamo creato, e stavolta l'errore è stato abbastanza evidente, non ci è andata bene quella volta, abbiamo creato un bruttissimo effetto che si chiama Moiré. Che è l'effetto del retino venuto male, un effetto fastidiosissimo alla vista. Enoch è molto simpatico, mi ha fatto una dedica sul volume con Spraylitz che indicava il Moiré, minacciandomi di botte. Beh, l'ha presa bene, infatti no, poi dà vita a una dedica unica, molto certo, contestualizzata, quindi di per sé niente male. E non sono stati fulmini e saette quelli di Enoch, sono fulmini e saette quelli del titolo della canzone che mandiamo adesso, questo collegamento qua, ho fatto triplo salto mortale carpiato e qualcosa del genere. E Tin Lizzy tardi, perché erano già più hard rock, probabilmente avevano John Sykes alla chitarra. che mi pare che sia stato anche dalle parti di John Sykes, sia stato anche dalla parte di Whitesnake. Forse in una delle formazioni di Whitesnake. Va, sì. Fantastico, siamo nerd del rock anche. Fantastico. Tin Lizzy, la buona anima di Phil Lynott, Turn and Lighten. radioarchimede.it. Sono solo nuvolette, dai fumetti al pop, viaggio intorno alla cultura disegnata. In studio Fulvio Gatti. Rendiamoci conto che io da ragazzino ho sempre preferito Star Wars a Star Trek, ma solo perché in Star Trek c'era musica classica, in Star Wars bene o male, poi nella Taverna di Jabba nell'edizione speciale c'è un rhythm and blues, quindi di per sé, per quanto mi riguarda, da giovane rocker preferivo. Non ce la fai, Star Wars deve essere esatto, sempre. Esatto, no. che poi, faccio... poi mi coinvolgi, no, comincio a parlare anch'io di Star Wars, non no, guerre ma... stellari e non finiamo più. No, ma in senso lato, non riesco a non dire stupidaggini, cioè, diciamolo pure, diciamola per intero. Star Wars non è una stupidaggine. Questo ce l'ha detto Pasquale Ruio, che è stato qui, è stato molto piacere aver qui uno dei più importanti sceneggiatori di fumetti italiani, Bonelli, che lui è stato il primo a raccontarci su Sergio Bonelli, che se c'era una cosa che faceva infuriare Sergio Bonelli era se qualcuno gli diceva ma è solo un fumetto. Ma infatti aveva perfettamente ragione Bonelli. Esatto. Quindi su queste frequenze digitali quasi sempre ne parliamo, cerchiamo di non sminuire qualcosa che è un prodotto dell'intelletto, della creatività, di molto sudore e dà anche risultati e quasi sempre arriva anche un pubblico più ampio di magari tante narrazioni ombelicali e snob eccetera. Però questo l'ho fatto, questi problemi qua ne abbiamo discusso con Adriano Barone, abbiamo sparato più boiate di oggi, quindi tu non temere. No. La puntata con Adriano ha straripato completamente, ma Adriano straripa di suo. E, Francesco Bosco, abbiamo 10 minuti per parlare ancora di tipografia, di stampa. Io parlerei, non abbiamo parlato, siamo finiti su Star Wars perché questo era ovvio, vabbè, da queste parti, ma di Zero Calcare, perché la storia editoriale di Zero Calcare con Bao anche è iniziata per la vostra tipografia. Allora, non esattamente, ma quasi. Quasi, ok. Nel senso che in realtà la prima produzione... Allora, con Bao sì, esatto. Zero Calcare con Bao la sì. La domanda era giusta, sei tu che non ascoltavi. No, allora, Zero Calcare e Bao sì, è iniziato tutto con noi. In realtà Zero Calcare aveva già prodotto il suo primo libro, che è autoprodotto, il primo libro, che era Profezia d'Armadillo in bianco e nero. Con Bao e l'apporto, anzi soprattutto con l'apporto di Matt Cox, che è stato il mentore di Zero Calcare all'inizio, è stata fatta una versione colorata che è stata stampata da Bao ma non da noi, la prima edizione. La seconda, la prima ristampa l'abbiamo fatta noi, di lì non ci siamo più fermati, nel senso che qualsiasi cosa di Zero Calcare uscisse da Bao, insomma, alla fine l'abbiamo stampata noi. Ho fatto una confusione con i tempi, ma fa lo stesso. Mi perdonerà lo scrittore in studio. se non vai in Berserk e diventa Gran Marnazzi adesso, è piuttosto tranquillo, quindi... diciamo che... Con Zero Calcare, appunto, siamo partiti con La Profezia dell'Armadillo, siamo arrivati fino a Cobane Calling, che in realtà deve essere ancora stampato, ma è questione di giorni. Okay. Questa mega tiratura, che si può dire perché è già stata ampiamente pubblicizzata, di 100.000 copie. La cosa impressionante è che i libri di Zero Calcare vengono ristampati praticamente a cadenza trimestrale, sempre con delle tirature molto alte. Questo è un caso editoriale, penso, unico in Italia, soprattutto per quanto riguarda il fumetto. E la cosa ancora più sorprendente è che vengano stampati da una piccola tipografia della provincia di Torino. Questa è una cosa... Non è così normale. Il fatto che l'editore voglia che venga stampato in una tipografia artigianale piccola, secondo me... deriva da un po' di fattori. Primo, perché il personaggio Zero Calcare comunque è un personaggio di un certo tipo, non è uno snob altolocato, comunque un autore che, perdonatemi il francesismo, se la tira. E il suo prodotto comunque è un prodotto che arriva da un certo tipo di cultura, e quindi la tipografia artigianale ci calza a pennello. Poi è chiaro che noi dobbiamo fare i conti con i numeri, con quello che costa fare un libro del genere, ma grazie a quella fantastica interazione che abbiamo con l'editore riusciamo sempre a trovare la quadra. Sono finte le leggende che sento ogni tanto, che ci sono degli accordi tra autore, editore, tipografia, perché sotto banco chissà che cosa succede. No, sono cose che... No, lo dico perché sono cose che mi hanno detto in faccia e mi hanno dato abbastanza fastidio. No, ogni volta c'è un preventivo, ogni volta. Esatto. Ogni volta c'è un preventivo per qualsiasi tipo di ristampa. Ma perché dovrebbe essere altrimenti? Perché ogni tanto, secondo me, in questo campo l'invidia gioca dei brutti scherzi. Comunque, non nei nostri confronti, sto parlando dell'editore, non sto parlando di noi. non, assolutamente. Ripeto quello che ho detto all'inizio: tipografie artigiane come noi ce ne sono in Italia, ce ne sono per fortuna tante, tutte di alto livello, tutte che lavorano bene. Quindi il sistema che io ho fino adesso cercato di spiegare, per il quale un libro esce bene perché viene fatto in un certo modo, vale per noi come, per fortuna, e sottolineo per fortuna, vale per tutte le tipografie, quasi tutte, non esageriamo, quasi tutte le tipografie che hanno questo sistema. E questo è un bene perché l'artigianato in Italia deve essere valorizzato. Adesso sono luoghi comuni, però sono importanti, deve essere valorizzato, il prodotto artigianale deve essere valorizzato. No, il prodotto artigianale non vuol dire che per forza deve essere fatto in tre coppie o in una coppia sola, perché se no non è artigianale. No, è il sistema, certo. È il sistema che è giusto. Questo vuol dire che anche una piccola realtà può fare grandi numeri. Io non credo che a un editore piaccia spendere i soldi così tanto per spenderli, li spende con cognizione di causa. Allora, se sceglie di Bao, sceglie di stampare con noi Zero Calcare, un altro editore per par condicio, un editore che non lavora con noi, Tunue, un grande editore italiano, prodotti validissimi, non lavora con noi, eppure i suoi prodotti sono validi e sono stampati da una tipografia medio-piccola. Quindi voglio dire, ce ne sono, e è importante questa cosa, che si capisca che l'artigianato in Italia funziona. E se ci si mette d'accordo, funziona anche per i grandi numeri. Certo. Boh, no, beh, ci sono tutta una serie di... la CNA, Confederazione Nazionale Artigiani, mi dovrà... No, sono cose che bisogna dire, anche perché stiamo parlando, su queste frequenze digitali parliamo di tutto un substrato culturale, un ambiente culturale... Sì. No, dico, ho fatto questa uscita, no, però bene, ci tenevo perché in difesa... Ma non scusarti, è giusto. In difesa degli artigiani, è giusto, no, vabbè, d'Italia. Di anche qua tipo. Parliamo di un mondo nerd che non sempre è tutta una serie di autori, editori, professionisti che non sempre hanno i riflettori che ottengono magari componenti di altra cultura più altolocata. E in questo caso, secondo me, anche per me, è qualcosa che ti ho scritto anch'io negli appunti prima di sentirci, sì. Che mi sarebbe piaciuto parlare, perché anch'io, avendo visto la prima volta in una tipografia la dimensione di quelle macchine, l'attenzione, il lavoro... che richiedono la quantità di competenze specifiche che richiedono. Sì, soprattutto gli stampatori che lavorano sulle macchine devono avere 100 occhi. No, ma infatti è un universo intero. Sì. Questo è molto importante. E nel prodotto non devi giustificarti dall'aver fatto lo spot, no. Diciamolo. No. Per tornare a Zero Calcare, noi siamo molto contenti perché comunque abbiamo visto crescere quest'autore, acquisire importanza anche grazie al fatto che comunque siamo stati patti, insomma, abbiamo tirato fuori un prodotto che a lui piaceva, all'editore piaceva, a noi piaceva, esatto. E questo ha dato frutto. Quando queste cose danno frutti, insomma, fa sempre piacere. Allora, questa domanda qua puoi anche addomesticare la risposta, fai tu, dimmi anche la versione migliore, però... Tu nel momento in cui ho paura, tu professionista, perché... hai visto la prima volta, avete cominciato a lavorare su Zero Calcare, sì. Immaginavi che sarebbe diventato questo il successo, allora, di questo livello? Devo essere onesto, no. Avevamo capito che era una cosa che sarebbe, che questo autore si sarebbe fatto conoscere, questo sì. Questi numeri nessuno l'aveva in testa. Non solo editore, non posso dirlo perché non lo so. Questo non abbiamo modo. Però comunque una curiosità che mi faceva piacere. Diciamo che dopo il primo anno abbiamo capito che dopo il primo anno abbiamo capito che sarebbe diventato molto molto importante. Ma arrivare a questi livelli credo che nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Lui per primo. Eh beh, certo. Ma i miei 5 centesimi sono che, forse l'ho anche già detto in qualche puntata, che comunque è arrivato una fascia di lettori che magari non leggeva neanche più fumetti. La maggior parte dei lettori di Zero Calcare non legge fumetti, non leggeva. Questo chiaramente è un effetto traino poi, perché Zero Calcare funziona, il lettore comincia a vedere cosa propone anche la casa editrice, oltre a quello, magari si scopre appassionato di graphic novel, esatto. Guarda magari, si guarda in giro, magari cerca altri editori, da cosa nasce cosa. Del resto, se non sbaglio, adesso non sono un tecnico, ma se non sbaglio il mercato del fumetto in Italia sta crescendo abbastanza, è uno dei rami editoriali che sta crescendo di più, quando tutto il resto si sta un po' assosciando. Sì, sì, sì. È un settore che sta cambiando. Poi di per sé l'ingresso di una serie di editori, alcuni in libreria di varia, ma se guardi anche questo è un ragionamento che può fare anche un passante alla Feltrinelli di Porta Nuova, ti accorgi lo spazio che è aumentato per i fumetti. Prima era uno scaffalino, adesso è un'intera isola. Questo è grazie a editori illuminati, comunque, che hanno creduto anche che hanno spinto molto nella varia. Esatto. Quindi la presenza del fumetto in libreria. E qui devo spiegarla, però, perché la varia è tutto il mercato che non è la distribuzione della fumetteria. Vero. Scusate. No, vabbè, sono io che ho tirato fuori il termine varia, ma a volte ci sono tutta una serie di termini che poi sono tecnici, sono per detto i lavori e poi ci chiediamo perché non riusciamo a comunicare con l'esterno, se parliamo in gergo. 59, quindi c'è un conto alla rovescia che scade, quindi dovrei fare quelle cose stupide inutili, tipo fatti una domanda e datti una risposta alla Marzullo. No, per favore. E però non hai voluto fare pubblicità, poi vabbè, Davide Tarogli abbiamo fatto fare scena muta. Mi sembra abbia detto ciao a un certo punto. Ha detto ciao? Sì. Poi adesso ha farfugliato qualcosa al microfono perché è troppo timido per avvicinarsi del tutto. Vabbè, l'hanno visto, è stato visto in webcam, quindi eri presente. Tu non vuoi fare lo spot, però io agli autori chiedo le coordinate spazio-temporali, quindi i riferimenti. A questo punto, però, se qualcuno volesse approfondire riguardo da 3 a 4 servizi grafici, continuo a toglierti un numero. Mi fa piacere che aumenti. Vuol dire che si ingrandisce la ditta. Infatti. Comunque puoi dare i riferimenti del sito www.a4servizigrafici.it, A4 come il foglio. Come okay. L'autostrada, non lettere, numero A4, okay. servizigrafici.it, oppure la pagina Facebook dove pubblichiamo spesso e volentieri le varie fasi tecniche delle elaborazioni o quello che stiamo stampando in quel momento, per far conoscere anche, sempre in accordo con gli editori, per far conoscere anche che cosa stiamo facendo, come lo stiamo facendo e da che cosa nasce il prodotto che poi verrà letto. Quindi abbastanza frequentemente aggiorniamo la pagina. Diciamo che è più interessante la pagina Facebook che non il sito. Ok, infatti. Ma infatti alcune delle foto che sono state postate sulla pagina Facebook di Sono Solo Nuvolette vengono C'è una di Zagor, se non sbaglio. Ok, non abbiamo accennato, abbiamo detto che siete diventati gli editori della Bonelli, ma... Se non c'è più tempo... Non c'è più tempo, vabbè, allora... No, allora... Il realista del re, l'unico ospite che chiude lui. No, adesso non ti faccio neanche più parlare. Vabbè, troviamo in fumetteria 2 volumi già della Bonelli stampati Ne troviamo 4. Uno, un altro arriverà a breve. Se continui così ti faccio diventare a 2, continua a aumentare la dimensione del foglio. Uno è di Landog, la quinta stagione. Okay. Che è da Lucca, dalla scorsa Lucca, che è a disposizione. Un altro uscirà fra poco, che è una raccolta delle origini di Zagor. È molto interessante perché Bonelli ci ha scelto come tipografia per fare questi cartonati giganti ed è la prima volta che Bonelli si rivolge a una tipografia esterna che non sia una tipografia legata alla grossa distribuzione. Quindi anche un colosso come Bonelli ha scelto noi, dopo averci visitato, dopo aver visto le nostre macchine piccole e il nostro poco personale, e ha deciso di affidarci questi volumi. Sono piaciuti, insomma, continueremo, siamo molto orgogliosi di questo. Ok, e una delle immagini c'è sulla pagina Facebook di Sono Solo Nuvolette. Se passate da quelle parti mettete anche un mi piace, già, perché ogni tanto c'è questo meccanismo strano. Sì, dai, fateci Sono Solo Nuvolette, no, mettete tantissimi mi piace, ma 4 mettetene di più e fateci raggiungere i 1000. Esatto, e poi c'è questo meccanismo strano per cui adesso ogni tanto spariscono dei mi piace da Facebook. Questa... Sì, non ho capito come mai. Vabbè, non lo sapremo mai. Grazie a Francesco Bosco. Sarà il prossimo mistero. I mi piace spariti. Non lo sappia Giacobbo queste cose qua, perché poi succedono cose strane. Grazie a Francesco Bosco. Grazie a Davide Tarocca che ha fatto scena muta. Grazie a Giovanni Regia. L'ultimo pezzo. Ho già messo 2 settimane fa i ministri, ma li ha suggeriti Francesco. E quindi torniamo dalla parte dei ministri. Sì, sono un fan. Ok, i ministri, una palude. Thank you. piovono rane dall'alto del cielo, non voglio perderne neanche una. Piovono rane dall'alto del cielo, la gente in strada che dice ancora. Piovono rane dall'alto del cielo, non voglio perderne neanche una. Piovono rane dall'alto del cielo.